La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, il nostro appuntamento settimanale del weekend sulle novità al cinema è qui, è pronto, comincia per tenervi compagnia per un'ora per parlare appunto di tutto il nuovo che arriva in sala sul grande schermo e anche dei film da vedere come sempre anche a casa. È una settimana dove recita una parte importante il cinema italiano, soprattutto con l'uscita di uno dei film più attesi in un certo senso della stagione per il nostro cinema, come Diaz, un film sul quale chiaramente ci sono già versioni discordanti, polemiche, ma del resto il tema è proprio fatto apposta per discutere. È una settimana nella quale arriva anche un beniamino soprattutto delle giovanissime cine ascoltatrici, ovvero Bellamy, perché c'è Robert Pattinson che è il protagonista. Non c'è tantissimo altro, un colossal come Battleship che promette degli spara non indifferenti. Allora noi cominciamo subito a riepilogare gli argomenti della puntata nei titoli di testa e poi cominciamo a parlare di Bellamy. La più grande sospensione della democrazia nel dopoguerra. Così Amnesty International ha bollato i fatti del G8 di Genova. Ora l'irruzione alla scuola Diaz diventa un film per la regia di Daniele Vicari, ospite della Rosa Purpurea. Gli alieni tornano in sala. Esce Battleship, colossal d'azione navale sull'ennesima invasione degli extraterrestri. Dai creatori di Transformers, con un cast variegato che va dalla pop star Rihanna a Liam Neeson. Amanda non riesce a portare avanti una relazione con un uomo. Secondo la sua analista è ammalata di androfobia finché un incontro non la cambierà. È l'intreccio di ciliegine, esordio alla regia per Laura Morante. Robert Pattinson cerca di svampirizzarsi e diventa il parvenu a caccia di doti e di potere nella Parigi di fine Ottocento. È Bellamy, nuova trasposizione cinematografica del celebre romanzo di Guy de Maupassant. E allora, questi erano gli argomenti principali della puntata. Abbiamo detto, tuffiamoci subito nelle atmosfere ottocentesche e parigine di Guy de Maupassant con il Robert Pattinson, vedremo se è liberato davvero dai vampiri che sono in lui, protagonista di Bellamy. Arriva sul grande schermo questo celebre romanzo ambientato nella Parigi, come dicevamo, di fine Ottocento, dove un giovane abbastanza povero che vive in maniera non brillante in Parigi sotto mansarde un po' bohémienne, si chiama Georges Duroy, torna appunto in Francia, in casa, dopo aver combattuto in Algeria con nemmeno il becco di un quattrino in tasca, però molto molto deciso a farsi strada nel bel mondo, nella bella vita. È fondamentale l'incontro a una festa con un vecchio reduce. Allora, che cosa hai fatto tutti questi anni? Ah, mi sono appena congedato. Magari sarò più fortunato a Parigi. Hai scelto il momento migliore. Parigi è disgustosamente ricca. Marcisce nel denaro. Se non ce la farai qui, allora tanto vale che ti sdrai e muori. Sì! Anche le puttane diventano ricche. E io, ex soldato, vivo a Boulevard Haussmann, redattore politico di La Vie Française. Il nostro quotidiano sarà quello, amico mio, che rovescerà il governo. Io lavoro come impiegato agli uffici delle ferrovie. Non ho le tue conoscenze, Charles. Devo vivere in qualche modo. Perché non vieni a cena da me? Domani sera. Ti presenterò mia moglie. E allora, questa lunga presentazione per rappresentare una sorta di porta d'ingresso all'interno del bel mondo per Georges Duroy, che diventa Bellamy dopo che una piccola, la bambina, la figlia di una delle sue spasimanti lo appella in questo modo durante un pomeriggio di giochi. Ma dicevamo, l'ingresso nella bella vita è un ingresso difficile, anche perché è un mondo parigino, quello dell'alta borghesia, molto chiuso, un mondo fatto di direttori di giornali, di editori, di persone molto potenti a livello finanziario, ma dove a contare davvero, guarda un po', sono le mogli, sono le signore. Infatti avete sentito proprio Charles Forestier che dice: ti faccio conoscere mia moglie, che nella fattispecie è rappresentata dal personaggio di Uma Thurman. Insieme a lei, diciamo anche subito, subito quali sono le altre due protagoniste femminili, Kristin Scott Thomas nei panni di Madame Rousse e Christina Ricci in quelli della bella Clotilde. Ebbene, subito George si rende conto, George Bellamy si rende conto che sarà fondamentale navigare bene fra le onde appunto delle signore di questo ambiente per riuscire a scalarne tutti i gradini, per arrivare sempre più in alto in questa sete di avidità, di danaro, di potere, ma anche di capacità di seduzione della quale Bellamy si ciba. E dicevamo, ognuna di queste tre donne rappresenta un modo di vedere la seduzione, di subire in un certo punto la seduzione. Un film che ha dei clamorosi rimandi al presente. Non è la prima volta che il romanzo di Guy de Maupassant arriva al cinema, è successo già dai tempi del Muto e poi tante volte, però la costanza con la quale sembra di riconoscere pezzi della nostra società è davvero straordinaria, perché si parla del potere dei media, si parla di una scalata sociale totalmente immeritata in termini di talento, e quanto si è parlato dei senza talento negli ultimi tempi, di quanto conti la capacità di sedurre, di quanto conti il lavoro dietro le quinte piuttosto di quello alla luce del sole, tutti temi che sono totalmente sul tavolo ancora oggi, e questo sicuramente è un fatto positivo. La regia è un esordio di due registi teatrali, Declan Donnellan e Nick Olmerod. Ebbene, la regia è abbastanza sicura e tutto sommato ci racconta con semplicità ma con una certa crescente passione questo personaggio. Il giudizio sul Bellamy di Robert Pattinson: si è svampirizzato, ma fino a un certo punto. Non è facile farsi scrollarsi di dosso personaggi così ingombranti, soprattutto quelli dei vampiri. Hanno fatto fatica anche Christopher Lee e Bela Lugosi ai tempi. Mi sembra che Robert Pattinson cerchi un passo avanti, ma non ci riesca fino in fondo. C'è un problema ancora di espressività, c'è un problema soprattutto nei momenti in cui bisogna gestire la gestualità, bisogna gestire, diciamo così, l'assenza di dialogo, e forse è ancora uno dei limiti di un attore forse troppo bello per essere vero. La rosa purpurea. Centomila manifestanti senza servizio d'ordine, il risultato è che ci hanno massacrato. Hanno devastato la città. Che cosa si aspettavano? E noi siamo più utili sul posto a raccontare davvero le cose che accadono. Cos'è che rischiamo di fare 30 morti oggi, sì? Cazzo! Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non vedo l'ora di andarmene da sto posto di merda. Per dormire stanotte. Alla Diaz, c'è ancora posto. Non è lì dove si sono rifugiati i Black Bloc? Queste sono alcune parole, alcuni dialoghi estratti dal trailer di Diaz, Non pulite questo sangue, sottotitolo del film di Daniele Vicari, uno dei film di cui si è più parlato ancora prima che arrivasse in sala, cosa che ha fatto durante questo fine settimana, perché ovviamente guardare la propria storia, guardare in faccia la realtà anche molto recente, ancora molto fresca, come quella dei fatti accaduti il 20 luglio 2001, 11 anni fa a Genova, è sicuramente molto difficile. Il cinema ha bisogno che le cose si depositino, che i temi si storicizzino per poterlo poi affrontare in maniera cinematograficamente compiuta. Poi dopo si possono fare anche delle sorte di instant movie, ma sono un'altra cosa. Che percorso ha scelto Daniele Vicari per raccontare questo film? Quello di raccontare il dopo, un dopo, perché c'è un prima ed è la morte di Carlo Giuliani. Si prendono le mosse dopo quel giorno, si fa raccontare i telegiornali di quello che è accaduto in Piazza Limonda, e poi si racconta quello che succede in quel giorno, in cui 300.000 persone da tutta Italia e non solo arrivano a Genova, in gran parte, in stragrande maggioranza. Si tratta di persone che manifestano pacificamente per, si dice, un mondo diverso, mentre nella zona rossa i big della politica mondiale sono accerchiati e sono asserragliati quasi a discutere i destini del mondo. Ma quella morte del giorno precedente pesa come un macigno sull'atmosfera cupa di cui si impregna Genova. I Black Bloc, lo sapete, storia scritta, prendono il sopravvento, forse anche grazie alla mancanza di un adeguato servizio d'ordine, prendono il sopravvento sulla manifestazione, cominciano a devastare Genova, ed è lì che nasce Diaz, nasce la scuola Diaz, nasce la caserma di Bolzaneto. Per una sorta di, possiamo chiamarla vendetta, possiamo chiamarla operazione a freddo da parte delle forze di polizia, arriva, almeno questo racconta il film, arriva il momento in cui i poliziotti decidono che bisogna sgomberare un manufatto occupato. Sentiamo. Arrivano i guai. Dobbiamo sgomberare un manufatto occupato da pericolosi anarco-insurrezionalisti, o Black Bloc, che dir si voglia. Con quali uomini? Metà stanno a letto e l'altra metà non lo so dove stanno. Con quelli che riesci a trovare. Più sono, meglio. Ma ci abbiamo le foto di questi anarco... questi terroristi, insomma. Come li riconosciamo? Che foto cerchi, Scarù? Alle 22.45 tutti sotto la questura. Bene? Anzi... 22.44. Allora, questo è l'ordine che arriva quando i poliziotti, alla fine di una giornata durissima, sembrano voler più lasciare che le cose finiscano, che non doversi impegnare in un'altra situazione di questo tipo. Un ordine che arriva dall'alto, come è normale che sia in un organismo verticistico come quello appunto della polizia. Poi chiaramente il film cerca anche di individuare da quanto in alto arrivi quest'ordine. Ma dicevamo, Daniele Vicari arriva a questo punto dopo averci raccontato quel giorno, quella giornata, attraverso le voci, i volti, gli occhi di diversi protagonisti. C'è una ragazza, un'anarchica tedesca che si chiama Alma, che insieme a un ragazzo italiano, organizzatore del Social Forum, cerca di radunare un po' i dispersi, soprattutto di nazionalità diverse da quella italiana. C'è Nick, che è un manager francese giunto a Genova per un seminario del G8. Poi c'è un anziano pensionato della CGL, dello SPI-CGL, sindacato dei pensionati, Anselmo, interpretato da Renato Scarpa, che ha perso il pullman e vuole semplicemente trovare un posto per dormire. Ci sono Bea e Ralph di passaggio, che cercano anche loro un posto dove passare l'ultima notte prima di ripartire per i rispettivi paesi. Tutti questi personaggi, dopo aver girovagato un po' spaesati per una Genova ridotta proprio a un teatro di battaglia, convergono verso appunto la scuola Diaz, che è un po' diventa un po' una sorta di dormitorio prima di poi poter salpare verso i rispettivi lidi. E qui accade l'irreparabile, accade l'irruzione della polizia. 300 poliziotti nottetempo arrivano, scatenano l'inferno in questa scuola contro persone per lo più, diciamo così, pacifiche e assolutamente disarmate. Lo fanno inseguendo la teoria che lì si celino tantissimi dei Black Bloc che hanno messo a ferro e fuoco Genova durante il pomeriggio, ma non si fermano lì. Dopo la retata, dopo le manganellate, arriva il trasporto per una novantina di loro alla caserma di Bolzaneto, e lì ancora si va avanti con percosse, con umiliazioni che sono documentate. Tra l'altro il film, lo dico subito per evitare poi speculazioni di questo tipo, il film prende le mosse unicamente da atti processuali e quindi da carte che siano verificate. Questo non vuol dire che il film non tenda a raccontare la storia in un certo modo, da un certo punto di vista, questo è inevitabile, però ecco, è importante che lo spettatore che andrà al cinema sappia che quello che si vede è sicuramente successo. Magari ci sono altre cose che sono successe e che non si vedono, sono state operate delle scelte, magari è poco spiegato quanto dilaniante fu il contesto di quel 20 e 21 luglio a Genova, ma insomma quello che si vede è che poi il centro di quello che vuole raccontare Daniele Vicari, cioè come in un paese democratico e occidentale e civile, si pensa, si spera, come l'Italia, sia potuta accadere una cosa del genere, che Amnesty International ha chiamato la più grande sospensione della democrazia dal dopoguerra in poi. Ecco, questo è il centro di quello che Daniele Vicari vuole raccontare. Fra poco, tra l'altro, lo sentiremo qui ai nostri microfoni, e tra l'altro lo vuole raccontare anche per cercare di smascherare e di dividere anche chi nelle forze di polizia ha voluto tenere un atteggiamento diverso e non gli è stato concesso. Buonasera. Dottor Sartieri, cosa è successo? Si potrebbe sapere il perché del blitz? Allora, c'è stata una canita resistenza nella scuola che veniva usata come una specie di ospedale. Che cosa vuol dire che era un ospedale? C'erano molti manifestanti con ferite pregresse. Abbiamo trovato armi, oggetti contundenti. Possiamo vedere le armi? E sicuramente sono state trovate tutte le divise del blocco Nevo. Ma quanti feriti ci sono? Divise intere, intendo camicie, maglie, pantaloni, passamontagna. But why did you do this raid adesso che G8 è finito? What about my friend? Adesso abbiamo chiuso, diciamo, la fase racconto di Diaz. Fra poco però parliamo con Daniele Vicari. Prima però tiriamo il fiato e giochiamo insieme. Prima traccia del game di oggi. Posso risettare la lingua, aspetta. E tu come fai a sapere il giapponese? I videogame. Giochi ai videogame in giapponese? I giochi piratati giapponesi sono i meglio. Se avete già indovinato di che film si tratta, oltre ad essere molto bravi, ditecelo a larosapurpurea@radio24.it, perché c'è in palio il Blu-ray di questo film per gli ascoltatori, il primo del sabato e della domenica, che indovineranno. Come sempre vi prego di inserire anche il vostro indirizzo, perché questo agevola e velocizza tutte le operazioni di posta. Fra poco ci sarà però un'altra possibilità. E allora eccoci ancora a Diaz, eccoci all'intervista con Daniele Vicari, che abbiamo incontrato a Milano per farci raccontare un po' come è nato questo film e quali erano poi alla fine le intenzioni vere di chi lo ha raccontato. Sentiamo. Vorrei cominciare dalla scelta che tu hai fatto, che è quella di un racconto collettivo, cioè di prendere alcuni personaggi, forse anche per mostrare la diversità umana, professionale, geografica, eccetera, che è stata colpita da questa sospensione della democrazia. Questo approccio che hai descritto mi permette di far diventare il film un po' una metafora sul potere. Cioè, credo che la cosa più difficile in un film realistico sia quella di trovare la misura giusta tra realtà e metafora, no? Che è una cosa molto difficile, perché a volte la realtà ti schiaccia al cinema, ti distrugge il cinema che fai, distrugge il film che fai. E invece il fatto che in questi luoghi ci fosse tutto il mondo, fosse rappresentato tutto il mondo, e che dentro questi luoghi entrasse il potere in maniera così prepotente, mi dà la dimensione abbastanza chiara e netta di qual è il nostro rapporto con il potere, cioè di quali sono i limiti della libertà che ci è concessa. I tuoi sono cani sciolti, tranne qualche personaggio sembrano non avere legami né tra di loro né forse con altri come loro. C'era secondo te dentro questa storia anche la mancanza di un coordinamento? Si è molto spesso detto, si dice anche nel film, no? Forse quella manifestazione senza un servizio d'ordine è diventato qualcosa di poco governabile. Ma a Genova è stata un po' come un tavolo da biliardo, dove ci sono tutte le palline che vanno in giro ciascuna per proprio conto, poi arrivano delle schioppettate tremende che sparigliano ogni volta le carte. Quello che è accaduto a Genova è il caos del movimento, però è anche il caos delle istituzioni, che perdono il controllo di se stesse e della situazione, e soprattutto che perdono il controllo, diciamo, dei principi fondamentali della democrazia, cosa che non può accadere. Cioè, in un paese democratico non è immaginabile, non è giustificabile una polizia che, anche partendo da situazioni di piazza molto difficili, poi però improvvisamente decide a freddo, di notte, di fare delle irruzioni senza sapere nemmeno bene chi c'è in un posto e mette a ferro a fuoco questo posto, distruggendo fisicamente e psicologicamente tutti quelli che ci sono. Tu hai parlato della polizia, il tuo film, come anche ACAB recentemente, come in parte anche il film di Giordana sulla strage di Piazza Fontana, raccontano schegge impazzite o forse non più controllabili. Evidentemente c'è un percorso da 30 anni, 40 anni a questa parte che è sempre lo stesso. Cioè, a un certo punto, quando si vuol fare qualcosa, si prende una scheggia impazzita e si dice che è impazzita. No, io credo che nel caso di Diaz e di Genova non ci siano schegge impazzite. Cioè, il comportamento delle forze dell'ordine è stato abbastanza omogeneo. E poi sotto la luce del sole. Cioè, davanti alla scuola Diaz c'erano praticamente, mancava il capo della polizia, c'erano i capi della polizia, un po' di tutti i settori della polizia. Infatti la gravità, diciamo, e credo anche la difficoltà che ha la polizia nei confronti dei processi Diaz e Bolzaneto è proprio questa. è che lì davanti ci sono riprese e fotografie di alcuni degli uomini più importanti della polizia italiana che non solo non hanno impedito quello che è accaduto lì dentro, però poi hanno anche contribuito a creare, diciamo, delle prove che poi sono state oggetto di condanna per loro durante il processo, perché erano false. Senti Daniele, che pubblico ti aspetti per questo film? Ma io ho fatto un film che è un'esperienza, facendolo io personalmente ho fatto un'esperienza, quindi non voglio convincere lo spettatore che io abbia ragione, non voglio dimostrare una tesi storica, voglio solamente che il pubblico faccia questa esperienza insieme a me. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, terza parte del nostro programma. Ci sono ancora due film fra i cinque che escono in questo fine settimana e fra i quattro di cui abbiamo deciso di parlare che ci aspettano. È un super colossal, arriva da chi ha ideato e creato un fenomeno come Transformers, che da fenomeno di gioco per ragazzi è diventato un fenomeno anche cinematografico, quindi tanto divertimento, migliaia e migliaia di colpi sparati durante 131 minuti di cinema di impianto assolutamente hollywoodiano. Stiamo parlando di Battleship, film di Peter Berg, nel cast fra gli altri Alexander Skarsgård e soprattutto un Liam Neeson che magari non ti aspetti fino in fondo. Noi sentiamo subito una clip che ci fa entrare nell'atmosfera del film e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. Signore, dovrebbe dare un'occhiata. Dove l'avete trovato? L'abbiamo tirato fuori dall'acqua. Perché non ci hanno uccisi? Che diavolo ci state facendo? Se cinque navi fanno questo, che faranno 50 o 500.000? Siamo forse di fronte all'estinzione del genere umano. Suoi ordini? Non affonderemo senza combattere. E allora, avete sentito il clima che tira, insomma, in questo Battleship. Anche questo, tra l'altro, viene da un gioco, già come appunto fu con Transformer, un cinema fra il bellico e l'apocalittico, potremmo dire, e che ancora una volta racconta la battaglia degli umani contro chi umano non è e vorrebbe invadere la nostra terra. Boris Sollazzo, ce la faranno i nostri eroi a respingere i mostri cattivi? Ma ovviamente sì, lo faranno nella maniera sobria in cui avrete intuito nel trailer. D'altronde, se fai un film tratto da un gioco che assomiglia alla battaglia navale contro gli alieni in uno scenario apocalittico, insomma tutto ti puoi aspettare, fuorché 131 minuti dedicato alla recitazione per sottrazione o alla sobrietà stilistica. Devo dire che il film è proprio di quelli gioiosamente d'azione apocalittico. Quando ero più giovane e bello, amavo fare serate con amici cinefili in cui vedevamo i film più, come dire, aggressivi, a Roma si dice coatti, e questo è proprio uno di quelli che è talmente estremo nel suo portare avanti un certo tipo di stile eccessivo, e che poi ti diverte, cioè quell'Arianna che appunto sta per finire il mondo, ma non si scompone neanche un attimo e tiene sempre su il cappello, quella Liam Neeson che ormai come una sorta di De Niro europeo accetta ruoli senza spesso del pericolo e del ridicolo, sono meravigliosi. E sfido io a chiunque ad andare a vedere Battleship e a non confessare alla fine che si è divertito. Di sicuro non è un capolavoro, non ci si avvicina neanche lontanamente, insomma è un film che in alcuni momenti, sia per recitazione che per regia, è abbastanza imbarazzante, però ha mezzi tecnici clamorosi, ha questo cast molto buffo, molto strano, anche male assortito esteticamente, che però alla fine, secondo me, il suo obiettivo lo raggiunge, quindi alzo le mani come fanno gli alieni di fronte ai Marine. Senti, parlato di Rihanna, devo dire che quella è una delle più grandi sfide, perché riuscire a strappare un barlume di espressività alla maschera di Rihanna è un miracolo praticamente. Ma non ci riescono. Comunque non ci riescono, devo dire, per quello gli mettono il cappello e non glielo tolgono mai, è un po' alla Eastwood, no? Come diceva Leone, non ci riescono minimamente, lei appunto di fronte all'apocalisse mantiene una sorta di aplomb che è anche una fissità di sguardo. Credo che lei sia la prima ad essere contagiata, ecco, dagli alieni. Ho come questa impressione. Vedremo se sarà contagiato anche il pubblico italiano, perché ho come la sensazione che questo Battleship farà abbastanza durante il weekend. Vedremo se riuscirà a scalzare un'altra storia di mare come Titanic, che incredibilmente, a mio modo di vedere, perché è un film che ha gli anni che ha, ben 15, è riuscito a riconquistare ancora una volta nella sua uscita in 3D la vetta della classifica in Italia. Ricordiamolo, settimana scorsa nel weekend Titanic ha portato a casa 2.300.000 euro, quasi come fosse un film nuovo, non dico di James Cameron, perché quelli nuovi James Cameron abbiamo visto con Avatar, ne fanno molti di più, ma insomma è un'uscita da primo posto come negli ultimi 2-3 mesi non era mai capitato, con un incasso così nel primo weekend, sopravanzando il bruttino Biancaneve di Tarzan Singh, La furia dei titani, altra mezza boiata, diciamo così, di Jonathan Liebersman, e L'immarcescibile Quasi amici, che è ancora quarto in classifica e fa quasi 12 milioni di euro dal suo esordio. Incredibile, davvero il fenomeno della stagione. Però questo Titanic primo in classifica potrà essere scalzato dai mostri cattivi di Battleship? Ma non lo escluderei. Io nel mio cuore spero in un sorpresone Diaz, ma la vedo dura. Non lo escluderei, bisogna vedere che tipo di passaparola e soprattutto che tipo di distribuzione, perché questo è uno straordinario film per multiplex, proprio altro che popcorn movie, insomma, probabilmente li tiri anche. Quindi se è ben distribuito, c'è un buon passaparola, non è improbabile. Certo, Titanic in questa versione ha un grande fascino. Allora, a questo punto con Boris Solazzo noi chiediamo di restare un attimo con noi. Fra poco dobbiamo parlare dell'esordio alla regia di Laura Morante con Ciliegine, e ne parleremo diffusamente, però prima dobbiamo tornare a giocare insieme con la seconda traccia del film di oggi. All'inizio Nico era solo stupito dalla grinta di quel pivello, ma Charlie attaccava e basta. E Nico iniziò ad aver paura. Davvero? Davvero. Lui stava giocherellando con Nico, il pretendente, il numero due del mondo, e era Charlie che lo faceva ballare. E allora questo è il secondo contributo del film misterioso di oggi, La rosa purpurea, @radio24.it, titolo e vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Separé, perché adesso si parla di Laura Morante, si parla di un'attrice fra le più apprezzate del cinema italiano, che diventa regista, esordisce alla regia con un film francese, nel senso che lo è in tutto e per tutto questo Ciliegine, tanto negli attori quanto nell'impianto, poi pazienza da dove arriva la produzione, ma insomma è chiaro che la matrice culturale cinematografica da cui si ispira Laura Morante è esattamente quella. Si intitola, dicevamo appunto, Ciliegine. Cominciamo a sentire una clip. Ma tu ti rendi conto che Bertrand, dopo un anno, ancora non sa che prende il caffè senza zucchero? Che non bevo champagne né acqua gassata? Sono sposata da 17 anni. Sicuramente Hubert non è perfetto, ma il nostro rapporto dura perché riusciamo a chiudere un occhio sulle rispettive imperfezioni. Fammi sedere vicino a lui. Antoine? È l'unico che ha l'aria simpatica. Se non la conoscessi, direi che è un colpo di fulmine. Non ho mai sentito Amanda parlare così di un uomo, com'è sensibile, com'è intelligente, delicato, spiritoso. Ed è per questo infatti che abbiamo subito simpatizzato, perché è gay. E questo è il contributo audio legato a Ciliegine, un estratto dal trailer. Avete sentito quanto frizzante sia il clima, viene quasi in mente Woody Allen in certi momenti, dal dialogo serrato alla musica jazz, segno che si vuole anche creare un certo tipo di ambiente. Allora, raccontaci brevemente, Boris, la storia che ha scelto Laura Morante per il suo debutto alla regia e un po' come questa intrapresa è riuscita. Guarda, la cosa buffa è che tutti abbiamo pensato ad un Allen francese, e lei ci ha confessato invece che è figlio dei Pignons, di Schulz, il film, è che la sua protagonista è una sorta di Lucy, uno di quei personaggi insopportabili che lei, va detto, spesso in persona, e che lei ama proprio perché è fragile, probabilmente intenti a proteggere questa fragilità con questi caratteracci. La storia è facile: c'è una donna che viene definita dal marito della sua migliore amica, che fa lo psicologo, un'androfoba, e che maltratta sostanzialmente il povero innamorato che le sta accanto, rendendogli la vita impossibile, rimarcando sempre i piccoli dettagli che lui non ricorda mai, come tutti gli uomini, e che lei pretende che vengano ricordati, come molte donne pretendono. È una donna piena d'amore che non sa dimostrare, che a un certo punto incontra un uomo che sta concludendo la sua lunga storia, il suo lungo matrimonio, nasce qualcosa e non dico come, insomma, come va a finire, ovviamente, dico solo che ci sarà una piccola farsa, cioè per conquistarsi reciprocamente i due passeranno attraverso una serie di finzioni molto buffe. L'Amorante, secondo me, riesce benissimo nel raccontare il cinema che forse lei ha amato di più, un certo cinema francese anni Ottanta, il cinema che lei probabilmente vedeva quando andava spesso in Francia, anche a recitare. Io poi sono uno di quelli che pensa che quando recita in francese dà il meglio, e lo replica con grande classe, con grande abilità, con grande bravura, devo dire, dietro la macchina da presa, contando che lei ha fatto qui la coproduttrice, la cosceneggiatrice, la regista e la protagonista. Il film è un po' per appassionati di genere, per la commedia sentimentale, è quasi un'affettuosa parodia della commedia sentimentale. Se vi piace quel tipo di cinema francese, non perdetevelo, perché è un piccolo gioiello. Se vi piace L'Amorante, non perdetelo, e in generale comunque è un film che a mio parere è riuscito, è una buona prova registica, speriamo solo che non ci metta altri 7 anni per farne un altro. E allora, a proposito di questo, andiamo a sentire un estratto, alcune dichiarazioni di Laura Morante a margine del film. Una cosa è se uno deve fare un film, che ne so, con, non lo so, un film politico, un film, non so, in costume, un film, questo è un film semplice, quindi non capisco perché sia stato così difficile metterlo in piedi, insomma, ma non voglio dire colpa dell'uno o dell'altro, è andata così, è stato preparato 3 volte, io non conosco altri casi in cui un film si prepara 3 volte, io 3 volte sono andata in Francia, ho preparato, ho fatto i casi, sopralluoghi, quindi... Grazie Boris, a risentire. Grazie a te. La Rosa Purpurea. Quarta parte della Rosa Purpurea, come da tradizione, dedicata al cinema da vedere in casa, dal cinema da recuperare, dai programmi televisivi, come sempre in chiaro e gratuiti, e poi all'home video. Gli amici di Film TV, del settimanale Film TV, come sempre ci fanno un po' da ciceroni sulle scelte più cinefile, scartabellando qua e là nei palinsesti delle emittenti digitali in chiaro. Siamo in collegamento con Giulio San Giorgio di Film TV, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco e ben ritrovati con le nostre segnalazioni. Senti, oggi abbiamo fatto un paio di scelte particolari, anche quasi opposte tra di loro. Cominciamo con un film che ebbe un'ottima stampa alla sua uscita, poi come spesso accade non ebbe invece una circolazione clamorosa, ma è una buona occasione per rivederlo. Stiamo parlando di Il Grande Silenzio di Philip Groening, che va in onda su Rai Movie martedì 17 aprile. Sì, su Rai Movie alle 10 di martedì 17 aprile. Il regista tedesco Philip Groening passa 6 mesi nel silenzio assoluto impossibile del chiostro della Grande Chartreuse sulle Alpi francesi, nei pressi di Grenoble, per testimoniare la vita dei monaci certosini e del loro dogma, quello del distacco assoluto dal mondo e dalla sua confusione. Ne risulta un film che è innanzitutto un'esperienza in cui le vite ripetitive, ascetiche dei monaci si rispecchiano in un'estetica quasi mistica, sicuramente pura, senza commenti, parole, luci artificiali. Un film sicuramente ostico, ma anche decisamente magnetico, e un'esperienza assolutamente impagabile. E allora, questo è Il Grande Silenzio di Philip Groening. Chiaramente non è forse il piccolo schermo il modo migliore per un film di questo tipo, ma insomma, in mancanza di meglio, sicuramente vale la pena vederlo martedì 17 aprile su Rai Movie alle 10 di notte. Invece il giorno successivo tocca un film parlatissimo, di grande livello, di grande spessore anche nei dialoghi, di grande raffinatezza, come Gosford Park di Robert Altman. Mercoledì 18 aprile, su Iris a 00:50, siamo nel 1932, nella magione di Gosford Park, di due signori vengono accolti un drappello di ospiti muniti di servitù per una festa, fino a che non viene commesso un omicidio. Altman si basa su una sceneggiatura originale premiata con l'Oscar, una sceneggiatura che sembra mimare una pièce teatrale, talmente è parlata, e orchestra un film corale con 36 personaggi, coniugando con la consueta maestria il giallo, il ritratto di un'epoca e una finissima satira sociale. Ne esce una miniatura di poetica decisamente acuta nell'analisi antropologica e girata e recitata divinamente. E questo è Gosford Park di Robert Altman, allora mercoledì 18 aprile su Iris. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Terza traccia del film misterioso. Charlie, gli devi insegnare a boxare. Stai scherzando? Il comando vocale di Noisy è troppo avanzato per lui. Certo, ha bisogno delle tue mosse, dei tuoi comandi. Deve ricominciare tutto da capo. La rosa purpurea @radio24.it. Questa l'ultima traccia per provare a vincere questo film in Blu-ray. Vi ricordo titolo e vostro indirizzo per le risposte. Per i vincitori dovremo andare alla settimana prossima, ovviamente, quando sveleremo tutto, come facciamo adesso col film della scorsa settimana. Quello schifo di pianeta, quel meraviglioso pianeta, vorrei dire. Prima era nero, adesso è blu. Copre Antares e si nasconde dietro al sole. Tesoro, sarà l'esperienza più straordinaria che ci capiterà mai nella vita. Tra 5 giorni arriverà vicinissimo a noi e non ci colpirà. Che capolavoro, Melancolia di Lars von Trier, stagione scorsa del cinema internazionale, film passato al Festival di Cannes, e davvero un'esperienza visiva senza pari, almeno in tempi recenti. Melancolia, quindi, era il film con cui abbiamo giocato lo scorso weekend. Barbara Vignati di Canegrate e Clara Martina di Bonate Sopra, provincia di Bergamo, hanno vinto il Blu-ray di questo film, avendo indovinato per prime il sabato e la domenica. E per farci raccontare i contenuti dell'uscita in un video di questo Melancolia, noi siamo in collegamento con Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, allora, da BIM l'edizione in un video di Melancolia in Italia, però disponibile solo su DVD, comunque di buona qualità. C'è una doppia traccia in italiano, lingua originale, in Dolby Digital, 2 canali, come extra 2 approfondimenti sulla lavorazione, e porrei l'accento su quello più interessante, ovvero approfondimento sullo stile visivo del film, ma è presente anche il trailer. E questo è davvero importante, perché è un film che racconta la fine del mondo sostanzialmente, ma lo fa da un punto di vista davvero incredibile, quello di una villa dove sembra che Festen si sia sposato appunto con un film apocalittico alla Terrence Malick. Davvero c'è dentro un po' di tutto in questo sogno, viaggio onirico di Lars von Trier. Noi adesso andiamo avanti però con le recensioni della settimana, cominciando da una commedia italiana che si intitola e si è intitolata nel suo recente passaggio in sala La peggiore settimana della mia vita. Marghe, ti ho spiegato che Simona non è la mia amante. Ho avuto con lei un'avventura una notte 2 anni fa, ecco. Ecco, se dovessero esserci altre donne che potrebbero palesarsi, te ne sarei grata se me lo dicessi. Certo. Visto che il nostro matrimonio è sabato. Paolo e Margherita sono a 7 giorni dal loro matrimonio. Margherita e la paranoica madre sognano una cerimonia perfetta. Paolo invece è diviso tra la preoccupazione di entrare il più possibile nelle grazie del futuro suocero, che lo vede come un perdente, gestire il collega testimone Ivano e tenere a distanza una possessiva collega di lavoro, Avventura di una notte. Commedia briosa con qualche gag spinto all'eccesso, un eccellente cast tra cui primeggiano Alessandro Siani, Fabio De Luigi, sorprende anche Monica Guerrito nel ruolo della madre della sposa. Da Woman on Video l'edizione DVD, ma soprattutto Blu-ray, quest'ultimo di eccellente qualità audio-video, di gran lunga superiore al DVD. Notevole traccia audio DTS ad alta risoluzione, raramente presente nelle edizioni ad alta definizione di Warner. Come extra, oltre a backstage e making off, segnaliamo 9 divertenti minuti di errori su set. E adesso l'ultimo film che vogliamo segnalare questa settimana, una vera leggenda del cinema e del western, come Wyatt Earp, come La sfida all'OK Corral, ancora una versione cinematografica. Sentiamo. Cos'è questa storia che stareste mettendo insieme una squadra? Vostro onore, ci serve un mandato per arrestare Spike Kennedy. Richiesta negata. Signore, se arriverà in Kansas potrebbe sfuggire alla legge. Richiesta negata. Le sue conoscenze politiche sono molto influenti, non ditemi che vi lasciate condizionare. Mi stai mancando di rispetto, attento a come parli. Signore, un'attrice è stata uccisa la scorsa notte. Mi dispiace, ma non autorizzerò una spedizione per nessun motivo, mi sono spiegato? Siamo nel West, seconda metà dell'Ottocento, stanco di vedere spadroneggiare i fratelli Kennedy, protetti da un padre molto potente che nel tempo si sono macchiati di molti omicidi, lo sceriffo Wyatt Earp decide di passare all'azione e assicurarli alla giustizia dopo che anche la Matadora è caduta vittima della loro violenza. Assieme ai fidati compagni, tra cui Doc Holliday, intraprenderà un lungo viaggio che porterà il gruppo da Dodge City sino in Messico verso una imprevedibile resa dei conti. Modesto western girato con scarso piglio cinematografico da un regista abituato a produzioni televisive e che vede tra gli interpreti uno stanco Val Kilmer. L'edizione di Sony Pictures Home Entertainment per Long Video è solo DVD, di qualità peraltro molto buona, tracce Dolby Digital multicanale italiano e inglese di ottima resa, come extra uno speciale sulla lavorazione. Grazie Claudio, appuntamento alla prossima settimana. Un saluto, a presto. E allora siamo alla fine della nostra corsa, della nostra ora di cinema settimanale. Io ringrazio Fabio Cantadori in regia, Giorgio De Luca in redazione. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Arriveranno i nuovi film di Gianni Amelio e soprattutto l'attesissimo nuovo film italiano di Woody Allen. Grazie, un saluto da Franco D'Assisi.